nelle puntate precedenti. Ci troviamo al Forte Prenestino, nella scuola di musica, e si sta avvicinando il Natale. Il caro Iron Man, amico di famiglia, si appresta ai preparativi insieme a Daniele e ad Alexa, quando decide che è il momento giusto per consegnare loro il suo regalo. Si tratta del drone spia di R100, che viene immediatamente utilizzato per carpire ciò che avviene nel segreto delle mura della sala prove. Dopo una lezione di analisi sui rappresentanti più veloci del mondo della musica, i tre sono costretti dal coprifuoco a tornare a casa. Il nostro protagonista, sfinito, si addormenta abbracciato al suo nuovo regalo e, per un momento, sollevato di essere accanto al suo fidato eroe. Eccoci arrivati. Come avete fatto a convincermi, non lo so. Coraggio, vieni. E mo questi chi sono? Ci sono dei suonatori ambulanti. I canti di Natale. Mi porti a vedere? Fermiamoci. Non ce la faccio, ti prego, andiamo. Non ti piace? Non ti piace questa atmosfera? Ma ci abbiamo da fare a casa. Dobbiamo preparare la puntata. Ancora con la puntata? Dai, Marco, vieni. Raga, andiamo. Ma dobbiamo comprare i regali. È Natale, hai sei nipoti a cui pensare e vuoi chiuderti in studio. Stiamo a perdere tempo qua. Fermiamoci qui. Entriamo. Chi è l'ultimo? Sono l'ultimo, posso entrare? Ma che ne so, voi non mi facete passare. Non vi ho visto manco arrivare, eh. Non mi avete visto arrivare. Signora, c'eravamo noi. Cioè, è l'ultimo, non l'ultimo. Fammi passare, oh. E chi cazzo l'ha visto? Cioè, drogati. Ma vedi qui. Drogati. Va bene, eh. Buon Natale. Dico, dobbiamo pensare alla puntata. Una volta che potevi ordinare tutto, tocca venire qua. Una borgia. Il cashback è valido solo per acquisti fisici. Cashback. Prendi altre 27 confezioni di fagioli per raggiungere il bonus. Non si può rivedere sto meccanismo. Non funzionerà. Mi sembra che te sei lasciata prendere. No, l'avevo visto prima io. Maleducato. Signora, lo stavo guardando io questo. Ma io non lo so, questi drogati marioli. Andiamo via. Drogati marioli. E poi dove sta quell'altro? È al reparto abbigliamento. Basta giocare col carrello! Ho trovato questa felpa. Ma poi non te la metti. Non capisco. Ti fai comprare le cose e poi non te le metti. Devo provare. Provatela. Ti prego. Ci starebbe bene un pullover. Si devono provare d'abito? Ancora lei. Oh, ma quanto è piccolo sto posto? Perché io è un po' che aspetto il commesso. Ancora? Commesso? Cosa? I signori saltano la fila. E secondo me sono pure un poco stranieri, drogati e marroni. Avete igienizzato le mani? Sì signora, buon Natale. Ma poi abbiamo pensato qualche regalo. I regali per i nipoti. Prendiamo un propulsore idraulico. Ma che è il regalo? È in offerta. Dai, che ho parcheggiato su raccordo. Dai, mettiamoci in fila. Che la ritaglia. Mi fa passare avanti che ho solo due cose? No, signora, c'eravamo noi. Faccio veloce, giovanotto. Sì, vabbè, ma c'ha due carrelli, signora, che due ma cose? So. Bancomat, carta di credito. C'eravamo prima noi. Ma lei è un maleducato. Ma pure noi abbiamo una vita da perdere tempo, non è che... E ci credo che poi ci chiudono. Signora, se non cominciamo i soliti discorsi, per favore. Marioli e screanzati. Ma stia lontano da me, metro. Sigilizzi. Commessa? Commessa? Ora basta. Oh, l'hai disintegrata? Ma che hai fatto? No vabbè, io chiamo il direttore. Ma che, te sei impazzito? Cancello memoria cassiera. Me lo dà sto banco, ma... Che? ben fatto. Ma è spara flesciata. Nessuno può fermarci. Ma siete due criminali. Bravo, Alex. Siete Bonnie e Clyde dei centri commerciali. Ma che succede? Diventerai come noi. Va bene, ormai abbiamo passato il segno. Andiamo. Sono con voi, ragazzi. Andiamo a rapinare il Torres. Sì, rapiniamoli tutti, sì. Andiamo. Parlavi nel sonno. Un altro sogno. Io devo rivedere l'alimentazione qua, Ancora un incubo. Ah, che ore sono? Le 10:30. Alzati. È tardi. Dobbiamo andare. Avevi promesso? Che tardi, che dobbiamo fare? Dobbiamo comprare i regali. Cosa? Allora, se sento un altro di voi in questa stanza che nomina il Natale, lo scollego. Ma come? Quest'anno non avremo il Natale. Cosa dici? Cosa? Questa tradizione idiota importata dalla Finlandia. Ricomincia con la storia del compleanno mancato. Avevi promesso. Sei un mostro. Stiamo sul pezzo, lavoriamo alla puntata. Non è giusto. Abbiamo detto che facevamo la puntata sui videogame. Forse è l'unica cosa che possiamo salvare del Natale. Videogame. I videogame. Li hai ricevuti sempre a Natale i videogame. Fai così solo per il tuo compleanno. Ancora questa storia. No, non è per quello. Quanti sono? 36. Li ho contati io stesso. 36? Ma l'anno scorso ne ho avuti 37! Anzi, è pure per quello. Te vorrei vedere a te a essere nato il 24 dicembre. Una carrellata di compleanni falliti, di feste annullate, di scuse anticipate. Vabbè, non è per quello. Voglio che stiamo sul pezzo. Quindi mo non vola una mosca. Non cominciamo a dire usciamo a comprare i regali, ordina qua, ordina là. Partiamo. Io apro, eh? Bentornati su Radio Forte, 100 celle Avengers, puntata speciale dedicata ai videogames. Sigla! Ed era Doja Cat con Say So, la vincitrice della Hit Parade degli scartati di questa settimana. Noi siamo sempre su Radio Forte, questa è 100 celle Avengers. Oggi parliamo di una scimmia che è in testa da sempre, i videogame. Videogame. Proprio così, caro Iron Man. Ma non solo videogame. Parleremo del ruolo della musica nei videogame. Siete pronti? Oh, beh? Che è successo? Oh, dove siete? Iron Man? Alexa? Non ci vedo. Qua si è rotto tutto. Ma che è sto rumore? Acqua. Ci deve essere un buco. Ci deve essere un'infiltrazione. Posso salire a bordo? Chi è? Sei tu, Iron Man? Sono Aquaman. Scellerato. Aquaman? Ancora? Ma tu sei... Morto? Sì, è vero. Mi avete ucciso. Tecnicamente scaricato. Ma non sono qui per questo. Che vuoi, mo? Stavolta ho un compito. Dove sono gli altri? Devo annunciarti una visita. Una visita? E di chi? Verranno a trovarti. No, non me lo dico. Tre fantasmi, sì. Tre devices. Tre device. Il device del Natale passato. No. No, non me lo dico. Il device del Natale presente. E il device del Natale futuro. Ma non c'era bisogno, sto per fare lo spiegone sui videogame, tutta una carrellata panoramica, ma non devo inventasse sta pippa. Loro ti spiegheranno. Ma perché tutto questo? Perché tu sei composto per il 75% di videogame. Esagerato. L'elemento della vita, dici? La tua vita è composta per il 75% di videogame. Potevo essere presidente della Camera, se solo mi avessero riconosciuto il credito formativo. Ora è tempo di svegliarti. Svegliarmi? Vuoi dire che è un altro sogno? Ma che è il citofono? Sono addormentato. Sì? E buonasera, signor Suarez. Guardi, questo è un pacco per lei, firmi qua. Un pacco per me? Chi me lo manda? Io non so niente, niente, niente. Grazie, eh. Vediamo un po'. Salve. Chi ha parlato? Sono il device del Natale passato. Il device del Natale passato? Sono il Commodore 64, simbolo di vanità infantile. C64? Sei proprio tu? Ma com'è possibile? Io posso mostrarti il passato. Cosa devo vedere? Dove tutto ebbe inizio. Tutto ebbe inizio. Che fai? Che vuoi fare? Press play on tape. No! No! Pure tu queste tappe. Ed era Baby I Love You dei Beehive, vincitore della hit parade degli scattati di questa settimana. Noi siamo sempre su Radio Stanzetta. Questa è il nuovo ma Salario quello? Robots. Quello sono io. Ma ancora non la facevo la radio. Il registratore a microcassette di Papone. Ricordo. Oggi parliamo di una scimmia che mi è appena entrata in testa. I videogiochi. Proprio così, caro Emilio. Ma non solo videogiochi. Parleremo del ruolo della musica nei videogiochi. Siete pronti? Sapientino, accendi prima luce. Scrivi e premi controllo. Ma no! Non ricevo. Riprova e controlla. Ma no! Questa domotica non avrà mai successo. Ma ero un coglione. Guardali com'eri. Guardali come sei. Ma pari tu zio. Prima della nostra hit parade musicale, qualche notizia flash. Sapientino, lancia la sigla. Senti che ritmo, Emilio. Senti come suona bene il nuovo organetto Casio Wellington che mi ha regalato Papone. Sensazionali scoperte con il T99-4A. Proseguono le nostre avventure su Parsec. Il Texas Instruments T99-4A. Tuo nonno. Il mio primo computer in assoluto. Dopo il nono quadro di asteroidi, il gioco sembrerebbe ricominciare da capo. Notizie dal mondo. Esteri. Con le imminenti Olimpiadi di Los Angeles 84, la Epix annuncia l'uscita di Summer Games, il gioco delle Olimpiadi, con una nuova interfaccia joystick che lega la velocità del vostro braccio a quella del corridore. Chi sarà il più veloce? Interni. Papone sembrerebbe possibilista sull'acquisto di un C64. Incrociamo le dita e vi terremo informati. E poi accadde qualcosa. Quando arrivasti tu? Il tuo primo traguardo. Ho come un vuoto. Cosa accadde? Press play on tape. Dove siamo? Ecco qui, signor Suarez. Bene, bene, ma siamo sicuri? Non si preoccupi, signor Suarez. Ma lui mi ha detto Commodore 64. È lo mismo? Suo figlio sarà contentissimo. Il Commodore Amiga 500 è il non plus ultra. Può ottenere sino a 512 MB di RAM per soli 1.121.000 lire. Ma lui vuole solo il 64? No, è il nuovo modello della Commodore. Mio figlio è un rompecojones. No, suo figlio si sentirà il bambino più popolare del mondo. E l'Amiga? Mi gusta. Vuole essere. Stia tranquillo, signor Suarez, e buon Natale. Buon Natale. I laboratori della Commodore. Vorrei fosse andata così. Retroinquadratura memoria binaria ampliata, o RIMBA. Devo perfezionare l'acronimo. Ho speso molto per questo procedimento che riesce ad influire sull'ippocampo per eliminare ricordi traumatici. Ti rendi conto, vero, che l'Amiga 500 avrebbe conquistato il mondo? Ma che ne so, io non ero informato. Come ha fatto a preferire un modello precedente? E poi l'hai sentito questo accento latino? Te compro l'Amiga. Che dovevo pensare? Potevi essere presidente della Camera. Lo costrinsi a comprare un C64 su Porta Portese. Non lo voleva più nessuno, solo io. Stai ascoltando Radio Forte. 100 Rangers. Nei videogiochi ad 8 bit, i compositori della musica potevano utilizzare soltanto due suoni, in quanto degli 8 bit disponibili, 4 venivano usati per il reparto grafico, 2 per gli effetti sonori e gli ultimi 2 per la colonna sonora. Ringraziamo il nostro espertone e rieccoci come promesso con la nostra hit parade delle migliori colonne sonore da videogame. Al terzo posto, stabile a promuovere il Game Boy, una console senza futuro che non ci convince proprio per niente, abbiamo lui, l'idraulico che nessuno ha chiamato, Super Mario. Secondo posto, un brano di cui vorremmo riappropriarci, strapparlo alle discoteche dove Papone non mi fa neanche andare e riportarlo a sinistra. E dalla Russia è Tetris! Posto ci sono loro, i simpatici draghetti di Bubble Bubble, e un'altra grandissima sorpresa! E cioè? E cioè che con i miei amichetti, caro Emilio, l'abbiamo studiata in sala prove e ve la facciamo live! Su Radio Stanzetta! Ready? Go! Thank you. Adesso che siamo soli, dobbiamo prepararci all'evento. Stasera, non appena tutti dormono, usando il telefono con l'IBM 286 di Papone, ci collegheremo con una BBS, una banca dati americana, che sembrerebbe avere le risposte che cerchiamo. Non capisco, non hai paura che ti scoprano? Non preoccuparti, Emilio. I miei pensano che usi il telefono perché ho una vita sociale. Quanta curiosità e quanta sofferenza. Qui è l'alto comando. Il generale Behringer ha dichiarato DEFCON 3. I bombardieri si alzino in volo. Ripeto, far decollare tutti i bombardieri. Sì, pare che si tratti di una birichinata di un adolescente. Infatti. Che è successo? Il ragazzo si è introdotto nel sottosistema dei giochi di guerra usando una parola d'accesso lasciata dal programmatore originario. Dice che cercava una ditta di giocattoli. Questo. No. E dici che sei penetrato nel nostro sistema solo per fare una partita? Giusto, caratteristiche soltanto per me. È intelligente ma con scarsi risultati. Non ha dialogo con i genitori, ha pochi amici. Avete qualche idea su perché un ragazzo brillante come questo metterebbe in pericolo la vita di milioni di persone? No, lui dice che lo fa per divertimento. Cosa? Guarda! Ecco la bolletta, signor Suarez. 300.000 lire? Daniele? Daniele? Le BBS, i progenitori di internet. 300.000 lire, erano tante. Cercavo soluzioni. Quali ricerche ti portavano a questo? Le avventure grafiche. Le avventure grafiche? Sì, le avventure grafiche. Prima di quelle c'erano le avventure e basta. Solo testo. Discendenti dirette dei libro game. Prima ancora c'erano solo le storie a bivi di Topolino. Ma il punto è la scelta. La prima vera forma di interazione attiva. Che poi dovevi scrivere in inglese. Rimanevi bloccato mesi, frustrato. Dovevo capire. È allora che tutto cambiò. Arrivò Zack McCracken e tutti i suoi fortunati successori. Monkey Island. Si entra nel mondo Lucasfilm delle avventure punta e clicca. 300.000 lire, valeva la pena. E della Lucasfilm ti cito Loom, avventura grafica dark musicale, dove un druido lancia incantesimi sotto forma di melodie che ti dovevi imparare a memoria. Ma che fai, dormi? Meno male che ogni tanto uscivo. C'era sempre la sala prove. Sì, a parte le figu. Ma te non potresti arrivare all'ora giusta, cazzo, che dobbiamo andare a provare che alle 7 ci inizia l'ora, porca. Ma veramente ho avuto una discussione con mia madre. Ma sei un bamba, sei. Perché mi dice che non sono mai soldi. Ma per forza, li anticipo sempre io? Non mi date mai il deca? Che cazzo vuoi? Te ce l'hai quelli della io devo comprare le bacchette. Te arrivi e canti. Ma se l'altra volta te le ho comprate io? Cazzo, sono capaci tutti di arrivare a cantare. Io c'ho le spese. Un po' c'ha ragione, tu non porti un cazzo, cosa vuoi? Perché se compri un paio di bacchette, ma corde. C'hai proprio le mani corte. Si dice le braccia corte. Esatto. Ma io c'ho le mani corte. Come cazzo fai a suonare? Cazzo. Infatti canto. Guarda che c'è il tipo, andiamo. Ah, oh senti, noi abbiamo prenotato dalle 7 alle 9 nella 1, no? Sì, nella 1. Sì, avete le 7 alle 9 alle 1, venite qua un attimo, patticchiare, amicizia longa. 9 meno 5 non vola una mosca, voglio vedere i jack arrotolati, amplificatori messi a posto e niente strozzate, d'accordo? Tranqui, No, tranqui un cazzo, quanti anni hai tu? Ma cosa c'entra? C'entra sì, tu eri all'isola di White. No. Eri a Woodstock? Io sì. Silenzio, andare a provare. Dai, attacca. Questo è il ritmo della sala prove. Si suona dalle 7 alle 9. Ci gasiamo per un paio d'ore con un volume che ti fa dolore. E questo è il ritmo della sala prove, dove si inventano canzoni nuove e la chitarra dall'amplificatore esce un volume che paura ti fa. Una cassa dell'impianto non va e non l'aggiusteranno mai. Pelli rotte sui tamburi che suonano come i bustini del Dixon. Nonostante tutto c'è una melodia. Ora che siamo già in tre, fondiamo una band. il bassista per fare le prove. Ne arriva uno con le corde nuove, è preparato e sa tante note, ma suona troppo e tutto fuori tempo. Ne arriva un altro forse meno bravo, tira fuori il basso, inserisce il cavo, alza il volume dell'amplificatore e tremare le mutande ci fa. Si potrebbe andare dentro al garage che non usa mio papà per provare tutto il giorno, però suonare dopo cena non si può. Dai, portiamo gli strumenti giù da te, ora che ci sei anche tu, è fatta la band. Il ritmo della sala prove, ricoperta di cartoni di uovo, insonorizzano l'ambiente interno, mentre di fuori si scatena l'inferno. Basso pompa e la chitarra rocchia, la cassa rozza e il batterista picchia, mentre il cantante grida squarciagola, ma raramente le più fighe si fa. Radio Forte, 100 Celle Avenger, è molto meglio di qualsiasi cosa abbiano lassù. Bene, e non ci rimane che darci appuntamento alla prossima puntata. Salutiamo i nostri ospiti, Emilio, Sapientino e stasera dal Giappone, il grande Ryu, che ci ha parlato di come Street Fighter sia il primo videogame ad attribuire un tema ai propri personaggi. Japan. Era la Summer Game che non accadeva. Io vi ringrazio e... Noi riapriamo per cortesia la polemica. Abbiamo convenuto che la serie Tekken con il suo 3D non ha nulla da aggiungere a quanto fosse già stato detto in Double Dragon 1 e 2, e cioè Push the Button. È veramente tutto. State calmi. Basta. Emilio, aiutami. Sigla. Forse non tutto è perduto. Ora devi svegliarti. Svegliati. Svegliati! Eh? Hai un nuovo messaggio. Cortana, l'ha detta alla posta. Nuovo messaggio. Mittente. Mittente sconosciuto. Allegati. Allegato sospetto. Apro. Non è che se beccami virus. Vinci subito un nuovo device. Clicca qui. Apri subito allegato. Clicco. Eccola, troppo tardi. Il virus. Non sono un virus. Chi sei? Sono il device del Natale presente. Il device del Natale presente. Ma allora? Giro con vari sistemi. Puoi chiamarmi il piccione. Il piccione. Simbolo dell'apertura. Il 486. E dell'eterna espandibilità. Certo che non sei proprio del presente, eh? Potevi mettermi GNU Linux, ma sei sempre stato pigro. Io posso mostrarti il presente che non vedi. Il presente che non vedi. You got ed era Doja Cat con Say So, la vincitrice della Hit Parade degli scartati di questa settimana. Ma quello sono io mezz'ora fa. Questo è 100 Celle Avengers. Oggi parliamo di una scimmia che... Non è possibile. Cominciamo con un fiammeggiante assolo di Guitar Hero su PlayStation 2. Il gioco che ha messo in ridicolo i chitarristi e esaltato i gamers. Ascoltiamo. Nice job. Excellent. That is the hammer-on technique. Stop. Ok, Devices, l'assolo dura 10 minuti. Questo mi dà il tempo di andare in soffitta a cercare altri spunti per la puntata. Da qualche parte dovrei avere il vecchio Winning Eleven in lingua originale. Abbiamo imparato il giapponese pur di fare un torneo. Zekkono condition desu. Football freak no minasan konnichiwa. John Kabira desu. 解説は新藤勝義さんを迎えてお送りいたします. Dovevi conoscere i simboli. Molti Boten sono morti per darci queste informazioni. Mi raccomando, state sul pezzo. Ok. Siamo qui. Non temere. Stiamo sul pezzo. Non preoccuparti. Vado, Ora basta. Calmati. Come faccio a calmarmi? Ci tiene qui chiusi da giorni. Non vuole uscire. Solo per fare questa minchiata dei videogame. Lo credo che non è presidente della Camera. Non dire così. A volte è un po' superficiale. Superficiale? Hai visto di cosa vuole parlare in puntata? Guitar Hero. SimStar. Vuoi dire il karaoke per PlayStation? Con indicatore di bravura. Lo fa per parlare di musica. Ma dice sempre che la competizione è il male. Non ho mai visto la gente strapparsi le tonsille così per cantare. Si sente dai palazzi. Eccolo. Sta tornando. Oh. Eccomi, appena in tempo. In onda fra 3, 2. Bentornati su Radio Forte, 100 Celle Avengers. Puntata ricca questa di oggi, videogame e non solo. Fra poco, infatti, prima che vi presenti il nostro ospite, aggiornamenti dalla Mesopotamia, il mondo della scuola di musica spiato dal nostro drone DR100. Ma ora la linea va a te. Quali nuove dalla scuola di musica? I miei device mi odiano. Bye. ed era la sigla di Doom, discendente di Wolf 3D, gioco ultraviolento nato dal nobile intento di uccidere i nazisti. Funziona sempre. Ci sono cascato anche con Call of Duty. Chi? Comunque, caro Iron Man, l'abbiamo messa nella sua versione Sound Blaster 16-bit. E sì che noi la conoscemmo a 8-bit. 8-bit. Abbiamo un amico che ne sa a pacchi in merito. Espertone! Con l'era dei 16-bit venne tutto raddoppiato. La musica poteva occupare 4 dei 16-bit disponibili. Pertanto le composizioni potevano essere più ricche. 16-bit. Questa ricchezza ha permesso la creazione di colonne sonore importanti. Tra le tante, quella di Street Fighter 2, di Isao Abe e Yoko Shimomura, che ebbe un enorme successo perché per la prima volta la musica descriveva la storia dei personaggi. Comunque l'abbiamo messa Iron Man sia perché è importante rivivere certi suoni. Ah sì? Certi brividi. Sia perché, non ci crederai, i Metallica. Ancora i Metallica? I Metallica vanno i diritti pure per questa. Non ci credo. Dopo Napster, dopo i soldi che gli avevamo dato con 100 celle Avengers, il vecchio James è sempre lì a battere cassa. Comunque, bando alle ciance, ciancio alle bande. È qui con noi The Villager. Oh my. L'unità base di Age of Empires. Donna E. Benvenuto, colui che si accolla ai lavori pesanti, la vera pedina base dell'economia. Immortale. Benvenuto a lei e... Zoukanta. Benvenuto. Ecco, con lei attraverseremo nelle prossime 2 ore e mezza una lunga panoramica sui videogiochi nella nuova rubrica Cuore de Mame. Erectus. Sigla. Bene, sempre su Radio Forte 100 Celle Avengers. Yuri? Con The Villager, Yuno? Passiamo a parlare di Quake e... Sì. Holmes. Sì. Dicevo, alla possibilità che... Oklahoma? Che da Unreal in poi sia sviluppata per il game online... Lore? Sì. Papadagno. Sì, da prima reti locali, poi via via un'espansione che ha riguardato anche il suo gioco, The Villager. Sì. Oh, vabbè, va a cacciare gazzelle, che te devo dire? Redkit. No, quella non è una gazzella! La gatta! Lascia stare la gatta! Somos. Quanta violenza repressa! Meno male che non sei solo! Dove mi porti adesso? Ma questo posto lo conosco! È l'enoteca! Il mio compleanno! È vero, da quando c'è il forte i miei compleanni li ricordo con piacere. Fine. Thursdays on my mind. Friday, give me time. Saturday. fuck the soul is 50 down. Makes me feel good, another man, not me. Not me. Ask a muscle man, the mirror's creaking, the way you run, not me. Time for the scene doesn't bother me at all. We're playing, trying to believe in God to me. Not me. Aki is not the problem here. We won't play in Scrabble for her and her fear. Need that. Ti dico che era qui. Il mio primo scacciapensieri, altro che Game Boy, deve essere qui. Leggi la scala piuttosto. Ecco, ecco, forse dentro sta scatola. Comincio la fortuna per due. Non mi lasciare. Oh, ma che si c'è? Oh! Queste 100 c'è la Avenger, don't worry. Be happy, happy, happy. Ciao. Ancora? Ma allora sono arcolettico. Sono il device del Natale futuro. Il device del Natale futuro. Sono la tua Nintendo Wii. Il simbolo dell'eccesso. Mi ricordo di te. Per colpa tua ebbi la tendinite. Colpire una pallina che non c'è non è la stessa cosa. Ora lo so. Fisioterapia, amica mia. Quando il videogame chiese troppo all'essere umano, io posso mostrarti il futuro. Che ne sarà di me? Così sarà se continuerai con i videogame. Con l'avvento della PlayStation 1, finalmente nella musica si poteva usare il riverbero, un effetto che emula la profondità e la stanza di un suono. Le musiche quindi potevano essere sempre più realistiche. Si eleva tra tutti Nobuo Uematsu, compositore delle musiche per la serie culto di Final Fantasy. Ebbe così tanto successo che in Giappone furono pubblicati CD e vinili dedicati. Oggi la musica nei videogiochi ha dei premi ed eventi come il Game Awards e viene suonata in tutto il mondo da alcune delle migliori orchestre internazionali. Mia, mia, resta questa radio forte, piena di musica e questa gente gelle evangelica. Ed era via con me. del vecchio Paolo Conte, vincitore della hit parade di questa settimana, dei pezzi che non facemmo mai, degli scartati. Siamo sempre su Radio Forte. Questo è 100 celle Avengers. Oggi parliamo di una scimmia che ho in testa da tanto, tanto tempo. I videogames. Videogames. Proprio così, Google. E non solo videogames. Parleremo del ruolo della musica nei videogames. Siete pronti? Alexa, accendi Aerosol. Le aberrazioni. Le aberrazioni. Continuiamo la rubrica Perché non fui mai presidente della Camera. Ricomincia a delirare. Hai preso le pasticche oggi? No, no, ascoltatemi, vi dico. Le aberrazioni da videogame. Voi pensate che sia stata una spalla sublussata a fermarmi? Calmati. Fu Steven Spielberg. Ancora quel nome. Che sia maledetto. Jurassic Park. Il gioco, capite? Quello fu l'inizio della musica sinfonica, audio digitale, in qualità DVD. Non ha senso. E noi lo sapevamo. Ah, lo sapevamo. Chiedo scusa, non capisco. Che cosa? Che io... cosa hai detto? Tu non sarai mai come lui, hai capito? Mai! Ora vammi a prendere una crostatina, ammasso di circuiti. Vecchio ubriacone, non lo sopporto più. Ma lui ti vuole bene. Ma perché hai sposato quell'idiota? Volevi che restassi sola? Non sei più lo stesso da quando... Ah, forse hai ragione, vecchia mia. La mia mente è stata offuscata dalla programmazione infinita. Non lo credevamo possibile. Ettari sterminati di programmazione casuale! Ma di cosa stai parlando? Oblivion! Capisci cosa significa? Quando hai un mondo a disposizione che per essere esplorato necessita di più tempo che per essere programmato. Hanno vinto loro. Non ce la faccio. Non ce la faccio. Cosa? Il role playing game. Giochi di ruolo. La libertà assoluta che quei fricchettoni anelavano per spaziare e completare la loro dissociazione. Conobbi Jimbo! Jimbo! Non ce la faccio! Ma tutto questo aveva un costo. Cazzo, lo sai che non tratto le morti in diretta! Non farti prendere un infarto, Lenny! Fregatene, amico, l'ultimo pezzo è il migliore. Fai un tuffo secco di sei piani e bam! Ti cerchi nel grande buio! Io non tratto Blackjack Lee! È la mia politica, ho i miei principi io. Ah sì, e da quando? L'iperrealismo da videogame ci avrebbe condotto alla pazzia. Quando investivi un pedone in GTA 4, accidentalmente si intende, la grafica era in grado di fartelo vivere con leggerezza, capite? Non lo sentivi. La prima volta che investii un pedone in GTA 5, sentii il senso di colpa, la voglia di costituirmi. Eravamo andati oltre. E fu allora che decisi che non avrei retto a tanta pressione e mi illusi che la strategia a turni sarebbe stata l'unico rifugio per il mio debole cuore. Conobbi Sid Meier e la sua sfida ambiziosa. Vecchio pazzo! Perché? Civilization. Li giocai tutti e sei. Un gioco educativo. Un'aberrazione, vi dico! Contenere la storia dell'umanità in un videogame poteva venire in mente solo a un americano. Ma per essere uno del Mayflower ne aveva di coraggio. Con soli due secoli di storia alle spalle. Si mise in testa di programmare religioni, governi e inventò un tipo di vittoria insolita, alternativa. Quindi spingeva i giovani verso una vittoria scientifica? O culturale? Ma che? La maggior parte dei giovani sceglieva Attila e dichiarava guerra al mondo. alla fine è un fottuto risico. Ma conobbi più cose di storia internazionale lì che a scuola. Il tempo medio di una partita erano 25 giorni. Non riuscii mai a finirne una in multiplayer. E prima o poi la finiremo questa! Non capisco. Smettila! Ma che succede qui? Chi sono costoro? Stiamo vedendo il concerto di Travis Scott su Fortnite. È una piattaforma da 100 utenti alla volta. Si sparano a vicenda su un'isola. Come faccio a parlare della musica nei videogame se oramai i mondi si compenetrano? Una volta la colonna sonora te la dovevi sudare. Ora chiami Fraccazza da Velletri a suonare nel tuo gioco. Come Chumba Wamba in FIFA. Ma stasera c'è lui. Sun is down, I'm freezing cold. That's how we already know. When it's here, my dog will probably do it for Louis Bell. That's just all he know, he don't know. E voi? Else. I tried to show. Invece di vederli dal vivo, ve ne state qui. Aberrazione! Ricomincia. Aberrazione! È un evento promozionale. Allora vi parlerò della Maxi. Quelli che hanno inventato l'espressione sim. Era facile da prima pensare di amministrare una città. Sim City. Non ti pesavano gli incendi, i terremoti, le inondazioni. E così fu anche con Sim Earth. Sim Earth. La terra. Sim Hunt. Sim Hunt. Il formicaio. Ma cosa succede quando in mano ti mettono te stesso? The Sims. The Sim, il simulatore della vita. Devi usare le mani. Allora è un gioco da bambini. La sentite questa musichetta stile Amazon? Che palle. Amazon. Siete voi che state scegliendo il vostro dannato divano. Sei intrattabile. E allora vi dico che quando sentite di essere usciti, perché il vostro Sim è uscito e vi pisciate sotto per far sì che il vostro Sim pisci, allora... Allora potete andare a sentirvi il vostro cazzo di concerto online! Ah, se ci fosse ancora Iron Man! Che palle! Lui non tornerà! Smettila! È morto! Devi fartene una ragione! Non dire così! Iron Man, morto! Non Devi è possibile! Svegliati! Ma io non voglio questo! Svegliati! Iron Man! Svegliati! Iron Man! Di Roma. Assolutamente no. Figurati. Oh, ma ve l'ho detto quanto sono contento di avervi qui, amici Devices. Sì. Sì, l'ho detto. Diverse volte. E l'ho detto che siamo podcast. Quello no. Quindi se qualcuno si è perso la puntata, la ritrova su fortepenestino.net. Giusto, Iron Man? Non ti vedo convinto. Non lo so. La narrazione faticosa, dici? Un po'. Ti rendi conto che hai scontentato tutti? Molti gamers saranno delusi. E allora ti dirò che quella che stiamo vivendo non è solo una rivoluzione tecnologica fatta di nuovi oggetti, ma il risultato di un'insurrezione mentale. Chi l'ha innescata, dai pionieri di Internet all'inventore dell'iPhone, non aveva in mente un progetto preciso, se non questo, affascinante e selvaggio: rendere impossibile la ripetizione di una tragedia come quella del Novecento. Ho Ora basta. Non mi rovina la cosa più intelligente che abbiamo detto oggi. Volevo chiudere con stile, con baricco. Quello è il retro copertina. Ho capito, mo finisco. Capirai. Ah sì? Va bene, Devices. La qualità non piace a nessuno. Per l'anno prossimo c'ho un'idea, una che mette tutti d'accordo. Cosa hai in mente? Natale al forte. Nonne. Che vuol dire? Facilmente! Non è che... Si mucchierà tu! Oh, sta volando gazebo! Mamma mia! Che talone! Natale al forte! La misura in cui tutta la serie di cose... Ah, ma chiude! Dal 24 dicembre su Radio Forte! Sulla pista d'atterraggio c'era steso un uomo biondo, salutava e non lo vidi mai più. Poi nel cielo un'esplosione di un motore a compressione, dedicai l'intera vita per raggiungere l'uscita. Io sono un missile, ho sfiorato più di mille volte l'atmosfera ed ora sono inutile. Io sono inutile, ho sfiorato più di mille volte l'atmosfera ed ora sono un missile irraggiungibile. Sento sulla pista d'atterraggio, mi saluta un uomo, il mio papà. Dove sta la casa? Sto partendo per lo spazio, riuscirò a capire meglio il senso quando non sarò più qua. Più di mille volte l'atmosfera ed ora sono inutile, irraggiungibile.